Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Olga. Questa settimana su Van Loon io sarei da sola, ma in realtà non sono da sola, perché con ogni probabilità a mia memoria per la prima volta abbiamo degli ospiti in studio e non li facciamo una telefonata. Io sono molto emozionata perché siamo in tanti, siamo in quattro e lo studio è affollato, ma davvero simpatico. E chi abbiamo in studio? Oggi abbiamo gli autori, i registi di un bel documentario che si chiama Memorie di Libertà, con ogni mezzo necessario. I registi, che, di cui poi vi ripeterò i nomi, sono Michela Benvenu, Enrico Gotti, Stefano Tedesco e Carlo Golotti. Vengono tutti da Parma e questo è un documentario molto interessante, molto bello, sui partigiani parmensi. Poi da loro ci faremo raccontare meglio. È prodotto dalla Spici Gelle di Parma ed è in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza, sempre di Parma. Io non lascio la parola a loro. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie, ciao. Grazie davvero per essere venuti fino a Bologna da Parma, a me fa molto piacere. Io entro subito nel merito del documentario per chiedervi: noi abbiamo tanti documentari sulla Resistenza, no? Perché avete sentito il bisogno, la necessità di fare questo documentario? Ok, intanto ciao a tutti, ringrazio Olga, ringrazio Van Loon e tutti gli ascoltatori di Radio Città Fucico. Essenzialmente questo lavoro ci è stato commissionato dalla Spici Gelle di Parma, che negli anni ha raccolto delle interviste ai partigiani di Parma e voleva insomma creare un film, insomma un documentario che racchiudesse un po' tutte queste interviste che hanno raccolto negli anni e per raccontare un po' le esperienze di queste persone che hanno combattuto, diciamo, per la libertà. E noi essenzialmente abbiamo fatto un lavoro di montaggio recuperando tutte queste interviste, selezionandole, perché ne erano più di 80, ne abbiamo selezionate circa 12. E le abbiamo montate, insomma, prendendo ovviamente le parti più interessanti, insomma, e niente, poi abbiamo montate con del materiale d'archivio, sia di materiale, diciamo, fotografico che materiale video. Quindi c'è anche presente un video che è stato girato durante la liberazione. Ecco, io chiedo a Carlo, che è anche un amico di Van Loon. Ti chiedo, come voi avete detto, Stefano ha detto che ci sono circa 80, no? Interviste in realtà in questo archivio dello Spici Gelle. Come si fa da regista a calibrare tutta questa mole di materiali, tutti chiaramente importanti? Allora, innanzitutto, ciao Olga, ciao a tutti gli ascoltatori. Il criterio è stato un po' questo, insomma, nel senso che noi abbiamo scelto di ordinare lo stesso film dandogli una struttura a tre capitoli, uno legato alla scelta partigiana, l'altro all'esperienza dei personaggi stessi che hanno vissuto l'esperienza della lotta partigiana, e uno dedicato alla memoria. Quindi abbiamo cercato, oltre ai personaggi che sono, tra virgolette, passatemi il termine, più cinematografici, quindi hanno una resa scenica che passi allo spettatore delle emozioni, anche un raccordo tematico, però cercando allo stesso tempo di differenziarli all'interno dei partigiani stessi, dare un ventaglio di voci il più vario possibile. Quindi c'è la staffetta partigiana, che rappresenta anche la partecipazione delle donne alla guerra di liberazione, ex militari, semplici, come si può dire, aderenti al movimento partigiano, che però non svolgevano la lotta armata ma semplicemente azioni di sabotaggio. Quindi è stato cercare di organizzare questo vasto materiale per nuclei tematici, creando i personaggi che lo spettatore potesse seguire. Ecco, il montaggio, sì, quindi è stato un lavoro piuttosto di montaggio di tutte queste storie, che immagino siano ugualmente interessanti. Invece rispetto al montaggio, Michela, io ho visto perché nel documentario ci sono, c'è anche un video. Un video in presa diretta di quegli anni. Questo filmato è stato molto importante perché appunto tratta della liberazione, ma anche della parte precedente della liberazione del castello di Montechiarugolo, che è in provincia di Parma. E per noi è stato molto importante appunto perché ci ha dato l'opportunità di attraverso delle immagini molto forti di lavorare con il montaggio a livello narrativo, e quindi abbiamo avuto la possibilità di avere delle immagini, non so, della natura piuttosto che del paesaggio che c'era in quell'epoca, e di attualizzarlo con il paesaggio che c'è adesso e con i posti che ci sono adesso a Parma. Ok, no, infatti questo video è interessantissimo. Voi, chiaramente, quant'è che dura il video? Il video dura un quarto d'ora. Voi fate vedere solo qualche... Ovviamente è girato in pellicola, quindi sì, insomma, non sono immagini che si vedono tutti i giorni. Esatto, praticamente mi pare di capire che quello sia un documento, sorta di documentario in presa diretta. Esattamente. E chi l'ha girato? Antonio Marchi. Chi era Carlo? No, Antonio Marchi era il proprietario del castello, ok, in cui è girato, che era un cinematore, poi dopo la guerra ha svolto anche attività legate all'attività cinematografica a Parma, che in quel caso però, dato che il castello era gestito dai tedeschi, di nascosto dalle torri e dalle mura filmava il cambio della guardia fino ad arrivare poi all'arrivo degli americani e la celebrazione nelle balere del paese. Una fonte immensa, praticamente. Permette di staccarsi dalla staticità delle immagini e per una volta avere, come dici te Olga, immagini in diretta dell'epoca, animate però. A proposito di immagini, nel documentario ci sono le interviste e questo film di cui ci ha parlato Michela, ma ci sono anche le immagini. Come avete montato, ecco, le immagini? Come si fa a scegliere tra la mole di immagini che abbiamo della resistenza di quel periodo? Allora, come diceva Carlo prima, il nostro lavoro è stato appunto suddividere, insomma, il film in capitoli, e noi, presi questi capitoli, diciamo, tematici, che possono essere la scelta partigiana e l'eredità che ci hanno lasciato i partigiani, poi da lì, insomma, abbiamo presi questi temi, abbiamo selezionato le interviste in base appunto a questi temi, e poi abbiamo giocato molto appunto con abbiamo giocato con le associazioni, cioè nel senso, magari non so, un partigiano per esempio Campana, che ci racconta di quando è stato colpito dai tedeschi e si trovava appunto a terra e pensava di morire, allora lì noi abbiamo associato a quello che dice con delle fotografie dell'epoca, che però non sono ovviamente direttamente, cioè non rappresento direttamente quella storia che ci sta raccontando, ma noi la associamo. E per esempio appunto lui ci racconta che cade a terra colpito da un proiettile, e noi mostriamo una foto per esempio di un tedesco che punta il fucile. E sono tutte immagini prese dall'Istituto Storico? Esattamente. E sono di Parma le immagini? Sì, sono tutte fotografie scattate comunque a Parma e dintorni, ovviamente in provincia. E abbiamo fatto un gran lavoro, soprattutto grazie a Carlo Golotti e a Marco Minardi, che ci hanno concesso comunque all'Istituto Storico di andare lì ad accedere a questo catalogo infinito di foto, perché veramente ce n'erano tantissime, tutte molto belle e forti. Noi ne abbiamo selezionate, credo, circa 30-40 foto, insomma. E poi appunto, come dicevo prima, abbiamo giocato molto con le associazioni, okay. Stesso discorso sia per le foto che per il video, okay. Quindi anche lì il video di Antonio Marchi, insomma, ci è servito sia per rendere un po' più, come dire, animato, insomma, il nostro documentario, per non essere troppo statici sull'intervista. Poi appunto sempre per questo gioco di associazioni, insomma. E come diceva pure Michela, così concludo, che abbiamo nel film Marchi, insomma, non si focalizza soltanto sull'arrivo degli americani piuttosto che i partigiani in città, ma anche gira molte immagini della natura, e in vari periodi, fra l'altro, quindi durante l'inverno piuttosto che la primavera. Questo ci ha molto colpito, infatti è stato il nostro incipit, diciamo l'input e l'output del nostro film, cioè l'intro e l'outro, praticamente, è basato tutto sulla natura. E noi giochiamo molto queste immagini, montiamo le immagini girate da lui con delle immagini girate da noi al Lago Santo, che è un luogo fulcro, diciamo, della... cioè è stato un luogo particolare di... della resistenza. Ci fu una famosa battaglia del Lago Santo lì, fra cui noi intervistiamo, cioè, Pietro Gnecchi, che è stato un partigiano che ha vissuto quei momenti. Io vi interrompo un attimo perché ci sentiamo una canzone, ci ascoltiamo veramente una canzone scelta da voi, che è la canzone The Partisan di Leonard Cohen. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. Torniamo sulle frequenze di Radio Città Fujiko, questa è Vallun e questa è la vostra mezz'ora di storia. Noi stiamo amabilmente conversando con i registi del documentario Memorie di Libertà, con ogni mezzo necessario. Sono venuti qui in studio con me Carlo Ugolotti, Michela Benvenu e Stefano Tedesco. Io vi chiedo in questi ultimi minuti qualcosa forse di meno tecnico e di più importante, però in qualche modo. Qual è il lascito, se c'è un lascito che volete, un messaggio che volete lasciare con questo documentario? Sì, diciamo che per noi la cosa più importante che volevamo trasmettere era proprio il pensiero di quei ragazzi che hanno lottato con ogni mezzo necessario, che è il nostro sottotitolo, per rendere l'Italia un mondo, insomma, diverso, un mondo dove si poteva vivere liberamente, con la libertà di pensiero e con la libertà di agire, insomma. Io infatti, vedendo il documentario, mi aveva colpito le parole di un partigiano che diceva qualcosa molto meglio di me, ma diceva qualcosa tipo: io non sapevo che cos'era la democrazia perché sono nato nel 23 e quindi non conoscevo niente, ho imparato che cos'è la democrazia e che cos'è la libertà in montagna. E questo è importante, no Carlo? Sì, no, noi abbiamo scelto proprio di dedicare una parte del film ai motivi della scelta e appunto, come vi avevo anche detto prima, sono tante le ragioni che hanno portato alla partecipazione della scelta partigiana. Io vi dico, da storico, ho trovato molto interessante uno dei nostri protagonisti che fa risalire l'adesione al movimento clandestino ai racconti, e all'antifascismo più in generale, ai racconti dei suoi parenti che vivevano nel mondo anglosassone. Questa è una cosa abbastanza particolare, l'influenza della cultura anglosassone sui motivi della scelta partigiana. Però sì, c'è una polifonia di voci e di motivi che spingono appunto i partigiani. Qualcuno dice: già pensavamo a una costituzione, altri dicono: attraverso il rapporto con la morte incontrato sui monti abbiamo elaborato un'idea di libertà. Però appunto tutto era finalizzato, e ad oggi è molto facile dire che il loro sacrificio, la loro lotta ha portato alla democrazia in Italia. Allora non era per nulla per scontato, perché è un rapporto tra un esercito regolare e un movimento clandestino, ragazzi contro militari, insomma, l'esito non era per nulla scontato. No, esatto. Niente, io vorrei continuare a conversare con voi, ma il tempo a nostra disposizione davvero è quasi finito, quindi io vi devo salutare, vi devo ringraziare. Ah no, l'ultima cosa: dove lo vediamo questo documentario? Allora, a casa di Carlo. Sì, a casa di Carlo, a casa mia o dell'amiche, tranquillamente. No, è il documentario, finora l'abbiamo fatto girare un po' a Parma in provincia, e speriamo di portarlo anche qui a Bologna. Essenzialmente, per chi volesse insomma vederlo, avere una copia gratuita del DVD o delle chiavette USB che la SPCGL insomma ha realizzato, e può contattare appunto la CGL di Parma e chiedere appunto delle copie, oppure se vuole organizzare proiezioni insomma negli istituti anche scolastici, cosa che noi comunque puntiamo a fare insomma, e già stiamo facendo in parte, però aumenteremo questa cosa. Quindi sì, contattate la CGL di Parma tramite mail insomma o telefonicamente per chiedere la copia gratuita, ripeto, copia gratuita del DVD o addirittura della chiavetta USB. Ok, io a questo punto vi ringrazio moltissimo, grazie per essere venuti qui a farmi compagnia in questa puntata, siete i primi raga. Grazie mille, grazie Olga, grazie Radio Città Fucico, grazie a tutti. Grazie a tutti, ciao ciao. Grazie ancora ai registi di Memoria di Libertà con ogni mezzo necessario, e davvero grazie, speriamo di vedere presto anche a Bologna il documentario. Una segnalazione che faccio a tutti è che su Spreaker.com, scritto Spreaker.com, c'è un podcast in 12 puntate scritto e ideato dallo storico Enrico Pontieri e la professionista della comunicazione scientifica Giulia Rocco. Sono partiti dalle leggi razziali del 38 per parlare di scienza e razza, del rapporto tra scienza e razza, con incursioni nel presente, perché loro fanno anche delle interviste ai passanti. Ci sono tante interviste di storici e di scienziati. Il podcast è diviso in 12 puntate, quindi è molto agevole da sentire. C'è anche una colonna sonora originale che fa proprio Enrico Pontieri. Insomma, se vi capita, è davvero un bellissimo prodotto. Io vi lascio sulle note di Oltre il Ponte, che è un testo scritto da Italo Calvino, e vi lascio con questa canzone interpretata dai Modena City Ramblers, perché